Inizio. Allora, introduciamo questa iniziativa della Rete Tanta Salute a tutti per raccontare, spendendo qualche parola per raccontare come è nata la rete, che è composta da realtà politiche e soggetti diversi che hanno sentito che erano interessati ad essere parte attiva in un momento particolare e unico per tutti. Infatti la rete nasce durante la pandemia del coronavirus, dove da subito è evidente la direzione affaristica e privatistica che la sanità lombarda, la strada che stava prendendo, ma non solo in Lombardia. L'obiettivo che ci siamo dati da subito era quello di creare uno strumento che ci permettesse di veicolare una narrazione diversa, una narrazione onesta e reale, e soprattutto far capire chi erano i reali responsabili di questi processi di privatizzazione che erano comunque in corso ormai da decenni. Quindi lo strumento, il bollettino, Tanta Salute a Tutti, nasce con questo scopo e accogliendo non solo le nostre discussioni, analisi e riflessioni, ma accogliendo contributi di chi sul piano della sanità ci lavorava e ci lavora da tempo. Poi, e non solo, e anche raccogliere il contributo di lavoratori che erano in mobilitazione in diverse strutture ospedaliere. Col tentativo appunto di unire le lotte, di farle conoscere, di collegarle e di dare forza a qualsiasi espressione di mobilitazione, di lotta fosse presente. Abbiamo fatto diversi presidi di controinformazione nei nostri territori, nelle piazze, nelle biblioteche, volantinaggi davanti ad ospedali, cercando appunto di intercettare sia i lavoratori che quelli che oggi vengono definiti gli utenti, ma che sono i pazienti, e questo ci ha dato la possibilità sia di comunicare che di capire poi il reale interesse che c'è da parte delle persone e l'isolamento che viene vissuto. Quindi insomma il tentativo di, partendo da una realtà tangibile, di costruire una partecipazione dal basso. Scusate, ma io devo. L'opuscolo che presentiamo oggi tenta comunque di inquadrare la sanità pubblica e privata all'interno di un modello capitalistico dove il profitto e lo sfruttamento del lavoro definiscono poi le scelte politiche dei vari governi nazionali e locali. E soprattutto in questo momento particolarmente aggressive ed erosive nei confronti delle conquiste che sono state ottenute in anni di lotta da parte dei lavoratori. Anche se la gestione della pandemia da subito ci risultava, cioè, chiaro l'indirizzo che stava prendendo, vista come dire, il definanziamento del pubblico a favore del privato, non eravamo preparati ad un'accelerazione di questa portata che in pochi anni ha quasi normalizzato il fatto che in vista di liste d'attesa molto lunghe le persone scelgano di pagare per avere una visita o per avere delle cure. Questo chiaramente escludendo tutte le persone che hanno delle condizioni economiche che non gli permettono di prendersi cura della propria salute. E introducendo un ulteriore binario di accesso al Servizio Sanitario Nazionale attraverso, chiamato super intramenia, attraverso le assicurazioni, forme di welfare aziendale, che ovviamente andranno a discapito di chi possiede unicamente una tessera sanitaria. In questi anni di guerre e di investimenti nell'apparato militare, ovviamente la sanità pubblica, grazie anche appunto alla politica del riarmo, viene definanziata e accompagnata dalla ristrutturazione di un modello produttivo che renderà sempre più difficili le condizioni di vita dei lavoratori. Il nostro tentativo è anche quello di allargare lo sguardo, vedendo quello che avviene nei posti di lavoro, nei luoghi in cui viviamo. Perché crediamo che la salute sia strettamente legata alla casa, alla scuola, al lavoro e ai bisogni che ogni territorio necessita. Se Per cui per costruire comunque un sapere e una risposta collettiva e organizzata, crediamo veramente che il contributo di tutti sia necessario, per cui grazie a chi è qui oggi. Un'ultima cosa, volevo ricordare un compagno che faceva parte della rete che purtroppo oggi non c'è più, Michele Michelino, ex operaio della Breda, e poi lo troviamo nel comitato per la difesa della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nel territorio, che ha dato molto, che oggi ci manca. Basta. Ci colleghiamo con Visconte, che ha scritto un articolo appunto sulla medicina di base, sulla la mancanza dei medici di base, che è in collegamento. Ma nel frattempo che Visconte si prepari un attimo, oggi parleremo appunto dell'articolo di Visconte, che parla della medicina territoriale, delle case di comunità, eccetera. Poi ci sarà un intervento sul riarmo europeo e la guerra in Ucraina. Poi ci sarà quello di Andrea su truffa ai danni degli utenti per questioni di ticket e esenzioni che non vengono applicate, anzi vengono applicate informalmente, ma poi nella sostanza non si riesce ad averla. E poi si parlerà anche di Milano da inalare, riferito alla questione di San Siro, e poi varie ed eventuali. Ci sarà anche un resoconto delle lotte che sono successe qualche mese fa a San Raffaele, sapete tutti cosa è successo nel periodo, dove cooperative assoldate all'ultimo minuto hanno provocato forti disastri dal punto di vista sanitario. E quindi è un'intervista fatta al coordinatrice della RSU dell'ospedale San Raffaele. E poi basta, poi c'è un invito a un presidio antisfratto che ci sarà in Torricelli il 30 gennaio 2026. Vabbè, io inizio a parlare un po', affrontando un po' quello che sta succedendo a est, cioè verso i confini orientali, Ucraina e Russia, dove è in corso. Cioè parliamo di una guerra appunto che non viene molto trattata sui media, forse perché l'attenzione è puntata su altri obiettivi. Comunque il rischio di questa escalation si fa sempre più concreto con un allargamento del conflitto all'intera NATO, cioè la militarizzazione procede a tappe forzate, le prospettive di un raffreddamento del conflitto sono sempre più lontane. Però è una guerra, diciamo, che è voluta come incredibile accanimento, perché offre un buon pretesto per smantellare le tutele sociali rimanenti. È per questo motivo che le varie oligarchie europee stanno cercando in tutti i modi di farla durare, di presentare la Russia come un nemico esistenziale. E questo in modo che le loro vittime partecipino di buon grado al loro stesso impoverimento materiale e sociale. Allora, adesso affrontiamo un po' di numeri, nel senso che quanto spendono gli stati membri della UE per la difesa? Avrete sentito la famosa cifra di 800 miliardi che verranno stanziati per il riarmo da qui a 10 anni. Però si può dire che però nel settore della difesa la spesa è aumentata tra il 21 e il 24 notevolmente, nel senso che rispetto al 24 la spesa è aumentata del 19%, invece rispetto al 2021 è aumentata del 37%. E questa è la situazione attuale. Però poi bisogna aggiungere altre risorse che non sono state menzionate, che però bisogna aggiungere, e che sarebbero quelle relative a derivante da un vertice che si è tenuto quest'estate, un vertice NATO dove hanno partecipato tutti i vari membri, credo che siano più di una trentina, in cui hanno stabilito sotto pressione americana che lo stanziamento del fondo per la difesa, per il riarmo, deve essere almeno del 5% rispetto al PIL. Attualmente l'Italia spende meno di 1,5 di però di percentuale rispetto al PIL, però già a fine 2025 è aumentata notevolmente. E difatti dal 26 in poi in Italia ci saranno da spendere 3,5 miliardi in più rispetto ad oggi nel 2026. Poi nel 2027 si spenderanno altri 7 miliardi di euro e nel 28 si arriverà fino a 12 miliardi in più, per un totale di 23 miliardi di euro nei prossimi 3 anni. Quindi sapete bene che 23 miliardi equivalgono quasi una finanziaria, che di fatto l'ultima appena approvata a dicembre si aggira sui 20 miliardi e passa. Quindi questo invece stanziamento per il riarmo di 23 miliardi è da farsi nei prossimi 3 anni. Però a questo bisogna aggiungere altre spese non previste, nel senso, vi ricordate quando si parlavano di requisire gli asset russi congelati nella banca di Bruxelles appunto, sì. Bene, questa operazione non è andata in porto e quindi però lo stanziamento, il finanziamento è fatto comunque lo stesso dai stati membri della UE, ad eccezione dell'Ungheria e Slovenia. Slovacchia. Questi due stati si sono rifiutati di finanziare il riarmo per questi 2 anni previsti, perché l'Ucraina chiedeva stanziamenti urgenti per i prossimi 2 anni per mantenere in piedi lo Stato, e quindi si è parlato di 90 miliardi di euro da stanziarsi in 2 anni, quindi 45 per il prossimo anno, cioè quest'anno 2026, e 45 nel prossimo anno, che però sono da dividere per tutti i membri componenti della NATO, della UE, Unione Europea. Quindi, siccome i due stati non hanno aderito, le spese di questi due stati saranno ripartite sugli altri stati rimanenti, per cui l'Italia dovrà cacciare fuori ancora 13 miliardi per questa operazione qui. Quindi, questi sono i numeri di questo riarmo che si concluderà nel 2035 e che prevede si aggirerà intorno sugli 800 miliardi per la difesa e il riarmo europeo. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che naturalmente, stanziando tanti soldi, dove si andrà a prenderli? Naturalmente verranno presi dalle spese destinate all'educazione, alla sanità e a tutto lo stato assistenziale previsto qui in Italia. Quindi, se ci sarà uno stanziamento enorme nel campo della difesa, dall'altra parte ci sarà una netta diminuzione dei fondi per la sanità. E quindi, nonostante la manovra di bilancio che è stata approvata e che tutti dicono che è un bel risultato, però i numeri che stabiliscono un'altra storia, cioè che il finanziamento in Italia attualmente arriverà nei prossimi anni a regredire al di sotto del 6% del PIL per la sanità. Cioè si arriverà esattamente nel 2027, i fondi per la sanità equivarranno al 5,93% rispetto al PIL. Quindi rispetto al 2027 il PIL sarà quello, 5,9%. Normalmente l'Italia si attestava sopra il 6%, mentre gli altri stati come Germania, Francia, Inghilterra arrivavano anche dai 7 anche ai 9 di percentuale sul PIL. Invece l'Italia per la prima volta andrà sotto il 6%. E quindi questo vuol dire che le regioni soffriranno ulteriormente di questi debiti, perché da una parte ci sarà il contenimento della spesa e dall'altro un aumento della domanda, e per cui è il rischio che si andrà verso una sanità a doppia velocità, con un diritto alla salute sempre più legato al reddito. Quindi abbiamo detto che fino adesso l'UE ha speso quasi 170 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina, ma si rifiuta di fermarsi e ha prolungato questi, appunto come dicevo prima, questi finanziamenti per altri due anni, mentre le economie di questi paesi che fanno parte dei volenterosi, che quelli sono quelli che vogliono continuare la guerra a tutti i costi, non sa come uscire da questo pantano se non tagliando sui servizi assistenziali e sociali. Per cui adesso vi parliamo del clima che si sta instaurando per far digerire alla popolazione tutte questi tagli e queste restrizioni sui servizi e sulla sanità. E per convincere la gente bisogna spaventarla, perché il problema è questo: quando la gente ha paura, a volte è lei stessa che invoca misure di austerità, misure di sicurezza che normalmente non farebbe. Invece, instillando il senso della paura, come è successo per il Covid, che se vogliamo vedere la strategia più o meno è quella. Anche per un Covid c'è stato instaurato uno stato di emergenza, e uno stato di emergenza continua ad esserci con lo stato di guerra in corso. E quindi per questo motivo vogliono che questa guerra continui a lungo, perché continuando a lungo vuol dire continuare a mantenere lo stato di emergenza, vuol dire continuare a portare tagli drastici sull'economia e sui servizi. E vi porto degli esempi di come riescono a manipolare la popolazione, facendo appunto uno è l'aspetto della paura, nel senso che è un conflitto che doveva risolversi in un paio di mesi perché la Russia doveva crollare immediatamente, invece si è arrivato all'opposto, dicendo che adesso il nemico può arrivare anche fino in Portogallo. Quindi stanno dipingendo come le mire di Putin come un'espansione a danno di tutta la UE, per cui il pericolo non è solamente l'Ucraina, ma può arrivare anche in Italia, Francia, Spagna, fino al Portogallo. Naturalmente in questo noi non ci crediamo, in questo aspetto qui, perché sappiamo benissimo che non è possibile che la Russia sostenga un conflitto di tale portata, no? E quindi questa menzogna serve a mantenere in piedi tutta la baracca ed evitare il crollo delle proprie poltrone. Vi porto invece adesso degli esempi. Un esempio di paura è quella, per esempio, non so se avete sentito parlare di una delibera che la regione Lombardia ha fatto quando ha istituito 30 siti per lo stoccaggio di materiale farmaceutico che potrebbe servire in caso di attacco nucleare. Bene, questa forma di prevenzione che vogliono attuare è basata su un farmaco che si chiama iotturo di potassio, una specie di iodio, che serve a dare una prevenzione alla tiroide in caso che questa assorbisse troppe radiazioni nucleari. Non so se sarà vero o meno, comunque con questa delibera individuati 30 siti di stoccaggio di questi farmaci, di cui a Milano ce ne sono 7-8 e in tutta la Lombardia sono 30, però il Ministero della Salute a chi ha delegato per la distribuzione dei farmaci per quanto riguarda il nord-est non ha una struttura pubblica, ma ha un istituto di ricerca a carattere scientifico però privato, la Maugeri di Pavia. La Maugeri di Pavia, per tramite il Ministero della Salute, è quella struttura che potrà erogare questi farmaci al Piemonte, alla Lombardia e al Veneto, cioè tutto l'arco del nord-ovest, est-ovest. Quindi la regione Lombardia allo stesso tempo ne ha acquistati 10 milioni di dosi, mentre a livello nazionale la cifra è proprio esorbitante, 130 milioni di farmaci di questo tipo che vengono messi in questi depositi e che all'occorrenza tireranno fuori nel caso di qualche incidente nucleare. Questo è un esempio che però sta a dire che se fanno queste operazioni possono anche prevedere che possa succedere. No, perché se uno fa questa operazione che fa un investimento a perdere, non lo so, quindi o hanno sentore che questo potrà succedere oppure vanno un po' all'avventura nello sperperare i fondi messi a disposizione per la sanità. E quindi questa è una notizia che su molti giornali è apparsa, sì, ma soprattutto in provincia, tipo Quotidiano di Brescia, quello di Pavia, in cui ci sono dette queste cose qua. Invece un altro fatterello che mi va di raccontare è che anche a livello sanitario si stanno predisponendo le strutture sanitarie per uno scenario di guerra, no? Nel senso che quest'estate già la Francia con una circolare diceva a tutte le strutture sanitarie di prepararsi per raccogliere un elevato numero di morti e feriti dovuti alla guerra che c'è in corso fra la Russia e l'Ucraina e che questa potrebbe espandersi a tutto ai vari paesi della UE, e quindi di prepararsi, e indica anche una data, dice entro marzo 2026 dovete approntare questo piano che prevede l'accoglimento di feriti, grosse ustioni, grosse diciamo amputazioni, perché quindi va a cambiare anche la tipologia delle malattie che verranno trattate in ospedale. Quindi le strutture ospedaliere pubbliche devono, diciamo, allentare un po' l'investimento sulle strutture di base e attivarsi per creare questi reparti qui, perché se devi creare grossi ustioni, amputazioni, devi avere tutto un corollario intorno che sia di supporto, e quindi molte energie verranno distolte dall'assistenza di base. E quindi questo è un altro problema, perché vuol dire che un comune cittadino troverà difficile trovare spazio per un ricovero piuttosto che per una visita, perché appunto molto sarà rivolta particolarmente a questo aspetto qui, cioè di accogliere e curare i feriti di questa guerra. Idem è stato fatto in Germania, anzi peggio, lì addirittura hanno immaginato scenari devastanti nelle metropoli. Vediamo un po' cosa dice qua. Ecco, rispetto a quello che dicevo prima del Ministero francese, diceva che entro marzo 2026... con la capacità di trattare da 10.000 a 15.000 militari in un periodo compreso fra 10 e 180 giorni. Quindi prevedono che in questo periodo di grossa escalation ci sarà questo movimento qua. per una capacità di 100 pazienti al giorno per 60 giorni consecutivi. Invece in Germania è successo la stessa roba. Qui invece hanno fatto una roba più dettagliata, che non si va solo dall'accoglienza dei soldati feriti, ma di prevedere situazioni estreme come la distruzione di edifici, combattimenti nelle strade delle capitali e persino l'evacuazione dell'intera città. Quindi questo è previsto nello Stato tedesco. Quindi gli ospedali, quindi, che sono tutti civili, verrebbero quindi trasformati in ospedali militari. Quindi le conseguenze che il diritto poi che dovrebbe vigere sarebbe quello militare, quindi anche lo stesso personale pubblico verrà trattato poi come personale militare, perché nel caso anche di trasferte di truppe all'estero, anche la sanità deve seguire queste truppe che vanno in mobilità, in gita, fuori dai confini nazionali. Però è l'Italia, cosa ha fatto? Anche l'Italia si è mossa in questo senso. Voi lo sapete? No, non lo so se lo sapete, però sta succedendo anche in Italia. A settembre-ottobre si è riunito un comitato dove c'è in carica il governo Meloni, quello della sanità, quello delle infrastrutture e della difesa, che si sono riuniti per preparare anche in Italia un piano di accoglienza dei feriti nel caso di malaugurata ipotesi di una guerra che si estende oltre i confini dell'Ucraina. Però per l'Italia il problema è anche ben più grave, perché già adesso non si riesce ad avere una visita in tempi normali stabiliti dalla ricetta, nel senso che la ricetta prevede delle priorità di date da seguire, dicono fior di legge dal 98 fino ad oggi, che dicono queste cose qua, che le prestazioni che il medico stabilisce sulla ricetta devono essere rispettate, e che roba che invece non succede. Non succede se non pagando l'intramenia, che sarebbe la visita a libera professione a carico totalmente dell'utente, del paziente, che sborsa di tasca sua l'importo di questa visita, e che in Italia sta aumentando notevolmente, mentre sta anche aumentando il numero di coloro che non riescono a curarsi, e questa cifra ormai sta salendo quasi a 5-6 milioni di persone che non riescono a curarsi adeguatamente, o che rinunciano di curarsi perché le liste sono infinitamente lunghe, no? Perché sapete che si arriva anche a 2 anni per una gastroscopia piuttosto che una risonanza. E quindi per l'Italia sarà un po' difficile mantenere anche questo ulteriore, diciamo, investimento, no? Perché se già è deficitario allo stato attuale, figuriamoci quando si tratterà di accogliere tutta una serie di feriti che verranno dal fronte. E per cui la sanità in questo caso verrà a essere per forza di cosa peggiorata, sarà un miraggio, e solamente chi avrà i soldi potrà, diciamo, curarsi. E poi questa trasformazione degli ospedali in ospedali militari ha anche un altro scopo, che è quello di mantenere alta sempre l'emergenza, come col Covid, in modo che uno possa poi fare quello che vuole, perché stato di emergenza vuol dire anche economia di guerra, l'economia di guerra vuol dire anche soprassedere a tutta una serie di vincoli e di norme per quanto riguarda per esempio gli appalti o meno, che sono sottoposti, diciamo, a rigidi controlli. Invece con un'economia di guerra tutto è più facile, tutto può essere fatto, magari si fa prima e poi ci si giustifica dopo. Quindi detto questo, cosa voglio dire più? Basta, nel senso che l'altro aspetto è che si andrà verso un diciamo un'anche militarizzazione della società, nel senso che se tu militarizzi tutti gli aspetti pubblici, dove vuol dire che la militarizzazione della società vuol dire che serve solamente a tenere buona la popolazione in modo che non faccia, diciamo, i capricci, che non faccia sollevazione, rivolte, eccetera, eccetera. E poi anche i decreti di sicurezza, come viene detto da Patrizia, che quindi serve a creare uno schema emergenziale che potrà diventare, diciamo, una condizione permanente, quindi sempre in emergenza fino a quando si crema. Basta, non so. Visconte? Dove? No, cavolo, non ci possiamo. Si può provare a mettere un la voce. Vai, vai tu. Vado io. E poi... Va bene, ciao, io mi chiamo. Ciao, io mi chiamo Andrea, sono compagno dell'ambulatorio medico popolare. Dell'ambulatorio medico popolare della rete Tanta Salute per Tutti. Anch'io e il mio gruppo ha aderito a questa rete nel periodo dal 2020 in poi, in cui ci siamo trovati a vivere una situazione particolare, e in cui abbiamo cominciato anche a ragionare sul perché ci eravamo trovati senza un adeguato paracadute nel momento della pandemia e quali erano le cose che mancavano. Abbiamo ragionato, in fondo su un tavolino c'è un librettino rosso con un documento che abbiamo scritto l'anno scorso per i 30 anni di vita dell'ambulatorio medico popolare, in cui abbiamo fatto una serie di ragionamenti. Ah, ecco, adesso una serie di ragionamenti per semplicemente mettere insieme due concetti, che non è semplicemente che a noi non piace i privati, ma che a noi i privati in sanità hanno fatto vedere che hanno portato a distruzione della medicina di base, della medicina territoriale, che hanno portato a una difficoltà di accesso alla specialistica e quindi le liste d'attesa interminabili, e al caos dei pronto soccorsi, perché non essendoci medicina specialistica e medicina di base con un accesso in tempi credibili, ovviamente tutto arriva al nodo del pronto soccorso. Questo perché? Perché a nostro avviso, e ne abbiamo parlato anche all'interno della rete, le politiche hanno portato, le politiche sanitarie hanno portato a un prevalere del profitto su quello della cura, la mancanza di una pianificazione e al fatto che al concetto di salute fosse sostituito il concetto di numero di prestazioni erogate, che fanno soldi ma non fanno salute. Per questo motivo abbiamo cominciato a contribuire anche col bollettino, e io stasera voglio raccontarvi una cosa che a me sembra una cosa molto esemplificativa di cosa succede quando il profitto prende il sopravvento rispetto al concetto di cura. Io lavoro in un ospedale, in un ambulatorio che si occupa di curare le malattie. Che si occupa di curare le malattie del fegato, e mi sono trovato dal gennaio 2025 a non riuscire più a prescrivere ai pazienti che hanno una malattia che si chiama epatite B un virus fondamentale per fare diagnosi, fare una diagnosi differenziale da un'infezione cronica e un'epatite cronica, decidere quando iniziare un trattamento, decidere decidere quando sospendere un trattamento e decidere quando cambiarlo. Abbiamo fatto presente questo problema, ci è stato detto che c'era stato un errore. A questo punto abbiamo aspettato con i pazienti che purtroppo non riuscivano a fare l'esame, protestando in Regione Lombardia, avrebbero dovuto mettere a posto tutto. Quando a maggio non era stato messo a posto niente e molti pazienti rinunciavano a fare un esame fondamentale, pur essendo malati di epatite B, un esame fondamentale il cui ticket costava 36-38 euro, adesso non mi ricordo esattamente, ma che alcuni non erano in grado di pagare e non facevano, sì, quasi 50 euro, sì, adesso non, dico 50 euro per arrotondare adesso la quota esatta, ma non è importante questo. Comunque un esame fondamentale per monitorare e per curare i pazienti non veniva passato. Siamo andati allora come ambulatorio medico popolare, è tutto descritto nell'ultimo numero del bollettino, dal difensore civico, che ha prima scritto all'assessore Bertolaso e al direttore del welfare Melazzini di Regione Lombardia una prima volta nel maggio. Non è arrivata nessuna risposta nonostante una richiesta di sollecito del giugno, di inizio agosto e di inizio settembre. A questo punto è arrivata invece una risposta a ottobre, in cui si diceva che l'esenzione sarebbe stata reintrodotta perché tolta, non scrivevano neanche per errore, perché tolta in un decreto legge precedente, ma sarebbe stata reintrodotta da novembre. Questo è quello che veniva scritto al difensore civico. Effettivamente abbiamo visto che facendo la ricetta, noi trovavamo, invece che il non esente, dal primo di novembre trovavamo 0,16 come l'esenzione. Però nel momento in cui il paziente passava alla cassa, gli veniva richiesto lo stesso pagamento. Ho mandato una lettera all'URP e mi sono sentito rispondere che per quello che è il sistema di pagamento non era stato aggiornato niente, che Regione Lombardia non aveva ancora provveduto ad aggiornare niente, per cui quando il paziente arrivava usciva in automatico che doveva pagare quel ticket. A questo punto siamo ripartiti da capo a distanza di un anno e abbiamo dovuto aspettare un po' di tempo per verificare, questa è una cosa che è iniziata a novembre, e abbiamo ricontattato il difensore civico e gli aggiornamenti ci saranno. Ma questo è per dirvi come anche un esame che è fondamentale, chiunque di noi medici va a un congresso internazionale, tutti dicono per curare bene l'epatite B bisogna fare l'HBV-DNA, ripeterlo, controllarlo, vedere come si modifica. Chi ha l'epatite B aveva l'esenzione su questo esame, adesso viene chiesto il pizzo di 50 euro circa ogni volta. Quindi io... Questo è solo un esempio di come girano le cose quando al primato della cura si mette davanti il primato del profitto. Noi continueremo a rompergli le scatole. Purtroppo il difensore civico stesso ci ha fatto capire che lui non ha grossi elementi, se non quello di far presente che si sta facendo un qualcosa che non è nei limiti della legalità, ma si vede che a riparare gli errori fatti, Regione Lombardia ci impiega tanto, quando non gli conviene essere rapida e gli conviene invece incassare un sacco di soldi col pizzo che fanno pagare a chi avrebbe diritto di avere l'esenzione. Grazie. Ecco, l'altra cosa che su cui si potrebbe lavorare, però bisognerebbe avere anche da investire, è ad opera dei pazienti, una class action. Bah, mi mancava, questo però non è facilissimo, perché vanno investiti dei soldi, vediamo cosa possiamo fare. Per ora vi aggiorneremo poi su quelli che saranno i passaggi successivi. Dai, vai. Allora, io ho scritto sul bollettino una situazione che si trova sul territorio, cioè quali sono quelle che vengono chiamate case di comunità. Allora, il PNRR, come qualcuno se ne ricorda ancora, per la medicina aveva previsto solo 7 miliardi di case di comunità. Naturalmente era molto privilegiata la struttura ospedaliera, questa forma di ospedalocentrico, no? Comunque le case di comunità erano previste circa, in origine erano 2500, poi 1288 nell'ultima previsione. Ebbene, riguardo ai traguardi fissati nel PNRR, nel giugno 2026, secondo l'ultimo report Agenas sulle cure territoriali, solo su 1723 strutture programmate, solo 1038 sono previste attualmente. In realtà soltanto 660 sono attive, queste case di comunità, o per meglio dire, non sono attive al 100%, perché in effetti le strutture complete, cioè che hanno tutti i servizi previsti dalla presenza necessaria di medici e infermieri, sono appena 46 addirittura. Ora, qual è il problema su queste case di comunità? Cioè che il personale, cioè erano state previste diciamo dei piani di incremento delle strutture, ma per esempio con elettrocardiogrammi, radiografie, eccetera, eccetera, però il piano non riguardava il personale, cioè all'interno di ogni casa di comunità dovevano essere impiegati 10 medici di medicina generale, 8 infermieri e 5 unità di personale amministrativo. In realtà il PNR non prevedeva però il costo per il personale, e quindi invece delle 12.880 medici, 10.304 infermieri e 644.000 amministrativi, per un costo stimato di 661 milioni di euro, quindi questa spesa non è stata prevista, per cui diciamo il fatto che nel PRR non prevedeva queste risorse per il loro finanziamento, e quindi sembra che queste case di comunità sono così sulla carta, ma non funzionano, a meno che non vogliamo ipotizzare che, come appare molto probabile, che i lavoratori necessari saranno assunti con contratti precari o ricorrendo al lavoro somministrato da agenzie del lavoro, oppure addirittura le case di comunità costruite con denaro pubblico venga poi affidate a gruppi privati ormai dominanti nel settore sanitario, secondo il famigerato modello della regione Lombardia. Per evitare che queste strutture diventino cattedrali nel deserto, ovvero scatole vuote, è necessaria una riforma della medicina generale, a cui stanno lavorando diverse regioni. In pratica i nuovi medici di famiglia saranno assunti direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale, cioè non con la libera professione come attualmente, ma assunti direttamente per lavorare sul territorio e nelle case di comunità. Non saranno appunto come oggi liberi professionisti che siglano una convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, ma diventeranno dipendenti in pratica. Ora i medici già convenzionati dovranno mettere a disposizione un certo numero di ore a settimana, almeno 14-16 ore per il distretto. Però questa svolta incontra diverse resistenze, sia da parte di una classe medica abituata a gestire in proprio l'organizzazione del proprio ambulatorio, e vede nella nuova organizzazione del lavoro un'anticamera della dipendenza, ovviamente. Oltretutto il lavoro sarebbe organizzato 24 ore su 24, quindi aumento dell'orario di lavoro, ma vedremo come andrà a finire, la situazione per il momento è in stallo. Quindi la medicina di base per il momento non sembra esercitare una grossa attrazione sui giovani medici, infatti ci sono molti posti sguarniti, soprattutto nei paesi di periferia. E in Lombardia il concorso per la scuola di formazione, quella che è necessaria per l'acquisizione del medico, per l'acquisizione della medicina generale, è un flop. Infatti su 600 medici che si erano iscritti si sono presentati solo la metà, in 360. E quindi questo significa che in Lombardia, rispetto al fabbisogno calcolato per i prossimi 3 anni, mancheranno circa 140 medici di famiglia. Lo stesso fenomeno si realizza anche nella categoria degli infermieri. Nonostante la proposta in corso di approvazione di concedere la possibilità di esercizio della libera professione, cioè libera professione anche per gli infermieri, nell'ultimo bando pubblico per le assunzioni di personale infermieristico si sono presentati solo 800 persone, invece dei 1000 previsti in partenza, a dimostrazione del fatto che, come è stato già rilevato in precedenza, è in atto una vera e propria fuga dei medici e degli infermieri dal Servizio Sanitario Nazionale, che scelgono evidentemente di andare a lavorare nel privato o all'estero. E questo, diciamo, è un grosso problema che aumenterà ancora nei prossimi anni. Quindi queste case di comunità sono state appunto un tentativo di fare delle cose che non sono state poi mantenute, hanno permesso alla Moratti, mi pare che sia, a tagliare alcuni nastri di inaugurazione, che però erano in pratica gli stessi presidi che erano realizzati in precedenza e che vengono solo cambiato di nome, insomma. Tipo, per esempio, sono andato recentemente alla Villa Marelli, quello lo chiamano case di comunità, in realtà non c'è niente di non c'è niente di personale, insomma, qualificato, per cui diciamo che sono tutte valle su queste case di comunità. Comunque vedremo come andrà a finire. Adesso staremo vedremo come la cosa andrà avanti, e faremo ulteriormente un'altra ispezione su queste case di comunità al prossimo numero del bollettino. Grazie. Aggiungere, visto che abbiamo un intervento sulla questione di San Siro da parte di un cittadino milanese che tra l'altro è presente, volevo aggiungere dei dati, perché oltre a, come abbiamo visto, è difficile curarsi, ma è anche difficile preservare la propria salute quando c'è. Il progetto dello stadio di San Siro creerà un danno enorme alla città e ai milanesi. Verrà costruito su un parco di fronte allo stadio di San Siro, il Parco dei Capitani, che tra l'altro ci sono passata ieri, l'hanno già praticamente occupato con delle strutture per l'inaugurazione delle Olimpiadi prossime. Occuperà 50.000 metri quadrati di suolo, avendo una capacità peraltro inferiore a quella attuale dello stadio di San Siro, per cui renderà anche più elitario l'accesso alle partite. Ed è un intervento che ha un forte impatto per l'ambiente e per quello da dove giungeranno i materiali, dove si produrranno i residui e i rifiuti del processo di realizzazione, perché in discarica andranno milioni di metri cubi di scorie e di cemento. Al posto dello stadio Meazza, il progetto prevede la costruzione di un centro congressi urbano più grande d'Europa, centro commerciale, servizi, forse un grattacielo, e qui probabilmente si concentra l'interesse speculativo di questo progetto. Alcuni studi del Politecnico, in particolare Paolo Pileri ha scritto anche su Altra Economia, ci sono diversi contributi che si possono trovare in rete, però lamentano il fatto che non riescono ad avere dei dati chiari e precisi per fare delle ipotesi. Comunque, facendo delle ipotesi in difetto, dicono che la nuova costruzione dello stadio comporterà per difetto l'emissione di circa 210.500 tonnellate di CO2, esclusa carpenteria metallica, che ne aggiunge altre 20.000 per arrivare a 78.000 con impianti, arredi, asfalti, pitture, rivestimenti, eccetera. Poi, sono numeri, però sono abbastanza allarmanti: 350 metri di cubi di macerie farciti di piombo e amianto dovranno essere smaltiti con 400 camion al giorno per buoni 5 anni, quindi altre 9.500 tonnellate di CO2 saranno emesse. Altro dato preoccupante è che la progettazione dell'impatto ambientale sarà fatta solo quando sarà completato l'iter, il progetto attuativo, cioè, ovvero quando l'iter sarà definito, quando non avrebbe neanche più senso intervenire. E poi c'è il tema dei crediti ambientali, cioè il meccanismo che permette di compensare un danno ambientale locale in altre parti del mondo. Quindi un'operazione che rischia di aggravare ulteriormente le condizioni dell'ambiente che invece sembra che Milano voglia utilizzare. Quindi il solo intervento di San Siro annulla le previsioni che il patto aria-clima prevedeva di abbassare da tra il 2017 e il 2020, e quindi si ritorna solo per San Siro ai livelli del 2017, mentre appunto Sala si vanta della, della forestazione urbana. Quindi, visto che ho dato un po' di numeri, concludo ricordando che a Milano si stima che circa 1600 decessi all'anno sono attribuibili all'inquinamento atmosferico, in particolare alle polveri sottili PM2.5, che in Italia Milano si è classificata come la seconda grande città più inquinata d'Italia. E credo che sia o Crema o Cremona, mi pare. Sempre Lombarda. Sì, sempre Lombardia comunque. Eccellenza. Beh, ma se si vede la cartina dell'Europa, la pianura padana è nera, praticamente. È nera. No, mi sembra Parma o Cremona. Neanche Tara. No, neanche Tara. E credo come consumo di suolo sia al secondo posto come regione la Lombardia dopo Reggio Emilia, dopo l'Emilia Romagna. Dico qualcosa ancora? Certo. Allora, un'altra chicca. A settembre, a metà settembre, il 15, la regione Lombardia ha emanato un'altra delibera che qualcuno l'ha soprannominata super intramegna. Allora, l'intramegna, devo spiegare cos'è o lo sapete già? Sappiamo. Lo sapete? Comunque, l'intramegna attualmente esiste nell'ordinamento normativo e giuridico italiano anche nelle strutture pubbliche, cioè nel senso che ci sono le visite svolte col Servizio Sanitario Nazionale, dove uno paga solamente il ticket oppure se è esente non paga nulla, e poi ci sono le visite intramegna, cioè sono le visite completamente private che vengono svolte in ambito ospedaliero. Adesso, con questa delibera che hanno approvato senza nessuna discussione, perché ormai le discussioni nei consigli sia comunali, regionali, nazionali non se ne fanno più, si approva direttamente la legge e basta. Bene, questa delibera pone le basi per l'ingresso anche nelle strutture pubbliche dei fondi assicurativi, dicendo allo stesso modo che l'utente che è iscritto in un fondo assicurativo ha la precedenza come priorità di accesso alle cure rispetto a un comune cittadino col Servizio Sanitario Nazionale. Quindi ci sono queste già tre tipologie di accesso alla cura, che è quello del Servizio Sanitario, quello dell'intramegna e quello dei fondi assicurativi. Nel privato già è una roba assodata da tempo, però con questa delibera si vuole normalizzare e istituire anche questa roba anche nell'ente pubblico. Questo vuol dire ulteriori problemi. Tra l'altro c'è da dire che questo ingresso dei fondi assicurativi nel privato viene assicurato anche dalle forze sindacali, diciamo più o meno governative, nel senso che le organizzazioni sindacali, dovete sapere, hanno due livelli di contrattazione, il livello nazionale e il livello locale, aziendale. Bene, c'è la possibilità da un po' di anni a livello aziendale locale che invece di fare la trattativa per un aumento di salario, invece di fare le lotte per questo motivo, le organizzazioni sindacali insieme alle gestioni delle amministrazioni ospedaliere si mettono d'accordo nel fare questo welfare aziendale, nel senso che invece di darti l'aumento contrattuale in soldi, io amministrazione firmo un accordo col sindacato che istituisco questo welfare aziendale che dà la possibilità al lavoratore, invece di ricevere i soldi dall'aumento contrattuale, di usufruire dei benefici che questo welfare comporta. Quindi può essere una convenzione per chi ha parecchi figli piccoli per avere i libri in un certo sconto piuttosto che avere un percorso fitness o piuttosto che eccetera, e quindi anche tutta una serie di pacchetti di esami che vengono fatti in aggiunta anche a quello del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi va da sé che quando un fondo assicurativo inizia a entrare in ospedale, dopo che passano un po' di anni, ormai l'ingresso che, del denaro liquido che versano si è talmente consolidato che l'amministrazione negli anni futuri non potrà più farne a meno, deve tener conto di questi investimenti del privato, altrimenti non ce la fa, diciamo, a sopperire alle disfunzioni che ha, alle carenze anche economiche, e quindi contrattano con questi fondi una serie di pacchetti di esami, di strumenti, di esami del sangue, specialistici di prestazione, anche di risonanze, eccetera, eccetera, un pacchetto, diciamo, consistente, che naturalmente viene applicato una tariffa minore per il fondo assicurativo, nel senso che se io contratto 10.000 esami del sangue, 5.000 radiografie, fra cui 200 TAC, 300 risonanze, angiografie, eccetera, eccetera, io ho diritto ad avere uno sconto se compro all'ingrosso o no. Lo fanno tutti, no? Anche uno che va al minuto paga una roba, invece se la prende moltiplicato per 100 ne paga meno. E quindi così fanno i fondi assicurativi, contrattano l'ammontare economico con l'amministrazione ospedaliera di un certo tipo, e quindi questo, una volta che si è instaurato, è difficile venire meno. E quindi questa avremo modo di parlarne un po' di più nel prossimo numero, perché non siamo riusciti a mettere giù, abbiamo messo giù una storiellina in prima pagina dove parla del gioco delle tre carte, che sono quelle del tavolo del servizio sanitario, dell'intramegna e dell'intramegna col fondo sanitario, che cambiando le carte, insomma, l'effetto è quello sempre di distruzione del servizio sanitario pubblico. Un'altra roba che volevo dire, perché non c'è Fausto, è che ci è arrivato un comunicato della rete degli sportelli. Sapete che gli sportelli sono nati in Lombardia per sopperire a questa, diciamo, questa difficoltà nell'avere accesso alle cure, e quindi dare una mano all'utente nel disbrigo di queste faccende sia burocratiche sia anche di far rispettare i propri diritti tramite magari lettere, presidi, occupazione degli URP, eccetera, eccetera. Ebbene, questo comunicato parla complessivamente, annuncia la creazione di questi sportelli, che sono già arrivati a quota 69 in tutta la Lombardia, e che sono sportelli di salute, a difesa della salute pubblica. E qui a Milano, nella zona sud, ne abbiamo tre. Abbiamo quella di Gratosoglio, presso il GTA, quella di Baia del Re in via Palmieri, poi c'è quella dell'Usi in Torricelli, e poi altri a nord e a est, come Lambrate e l'ambulatorio popolare. Questo per quanto ci riguarda noi. Per quanto riguarda gli altri sportelli, che dicevo sono una settantina, lì si sono buttati un po' tutti. Nel senso, siamo partiti alla spicciolata un po' noi, adesso, diciamo, si è talmente diffusi che lo fanno un po' tutti, le ACLI, i pensionati, i sindacati dei pensionati, anche altre associazioni, che però ognuno ha un suo modo di rapportarsi un po' diverso, nel senso che noi siamo un po' affini, ci conosciamo in 4-5, altri che hanno altre pratiche, altre idee, sono più, diciamo, più sull'istituzionalizzare questo servizio che stiamo facendo, perché addirittura alcuni chiedono la tessera per accedere a questi sportelli qua, come parlavo prima, le ACLI e anche la CGL con lo SPI dei pensionati. Quindi questo comunicato parla di questi 5.300 ricorsi che ci sono stati, è che hanno avuto un esito abbastanza positivo, nel senso che la cifra di soddisfazione si aggira intorno all'85%, quindi è un buon risultato, che non avrebbero avuto modo di esistere se non ci fossero stati questi sportelli qua, che appunto da quando sono nati è una stampella di supporto alle difficoltà che il cittadino incontra. Quindi va bene che si sviluppino, si organizzino, ma non basta, perché non basta risolvere solo il problema individuale e personale, ma come abbiamo visto qui in gioco è proprio, diciamo, l'eliminazione di un servizio universale, gratuito e accessibile a tutte senza discriminazione. Invece tutto questo si sta, diciamo, materializzando davanti a noi. Vediamo sempre più episodi in cui il ricorso al privato è sempre più invadente, più convincente, e quindi ci si trova nella difficoltà che davanti a un problema così grosso come quello della salute la mobilitazione su questi argomenti non è che ce ne veda un po' poi tanto, no? Però il problema è indispensabile, è fondamentale, perché quando diceva qualcuno, quando la salute non c'è, il problema è dopo. E quindi ci accorgiamo che fra la popolazione giovane questo non attecchisce, perché stanno bene in salute e quindi non sentono bene il problema. Però stiamo andando verso un sistema che non sarà più come è stato concepito nel 78, cioè un accesso gratuito e universale per tutti, ma sempre più legato al profitto e al reddito individuale, nel senso che, come diceva prima, il privato ormai ha superato il pubblico come la gestione della salute. Il rapporto ormai sta quasi superando il privato. In Lombardia è 49,5% di privato rispetto al pubblico, manca poco per superarlo. Nel Lazio invece è già superato abbondantemente, come anche in tutte le altre regioni del sud. Quindi forse ieri CCS, IRE sono già superati. Vuoi saperlo? Dillo tu questo qua. No, dicevo che con i progetti attorno alla città della salute di Sesto, questo diventerà reale presto anche in Lombardia, ma ribadisco, la cosa importante non è lamentarsi della privatizzazione, basta, bisogna lamentare la privatizzazione, perché la privatizzazione è alla base dello sfascio della medicina territoriale, che sia la medicina di base o tutti i servizi di base, alla base della lunghezza delle liste d'attesa, è alla base del caos che si trova in pronto soccorso. È tutto un'unica situazione, dove non c'è pianificazione o dove viene pianificato solo l'erogazione di prestazioni e non un percorso più globale di salute. Aumentano le prestazioni, ma si riduce l'efficienza della garanzia della salute per tutti. Visto che dopo ci sarà la proiezione del film Doctors Under Attack, lascerei la parola a Valentina, che fa parte di Sanitari per Gaza, che sì, è dopo anche. Vabbè, la concludiamo, poi facciamo solo la proiezione, facciamo una sì, no, o se qualcuno vuole dire qualcosa, certo, sono intervenuto, certo. Buonasera a tutti e a tutte. Io non conoscevo il bollettino, sono venuto stasera perché Pino Petitta mi ha mandato il messaggio. Ho lavorato per 25 anni nella sanità. Dico a Pino, che si occupa di questo documento, di contattarmi se ci fosse bisogno di un compagno che ragiona, che scrive anche, perché io ho fatto un giornalino per 30, 25 anni, insomma, a Redelli, lavoravo a Redelli. Penso che sia utile uno strumento del genere. È utile. Ah, l'aria, c'è l'aria. Mi mangiano così, porca madonna. Allora, penso che sia utile perché uno strumento in cui si discute delle grosse problematiche legate alla sanità, e poi io aggiungerei farlo vivere alla base, perché lo strumento di lotta politica è un giornale che tratta le questioni politiche generali e poi li traduce alla classe operaia, in questo caso sanitaria. Io intanto una battuta, sono comunista. Ogni volta che parlo c'è sempre qualcuno che ce l'ha con me, anche ieri, al presidio degli iraniani, ho cominciato a parlare, poi ho detto sono comunista. Cazzo, è arrivata una ragazza, avrà avuto 15, 16, 18, 20 anni, si è messa a gridare, ma tu qua là? Insomma, non ce l'aveva con me perché ho detto che sono comunista. Io sono comunista, lavoro anche nel sindacato, sono un sindacalista, parlo qua volentieri, varie volte ho parlato qua, perché in genere, adesso non ho messo l'orologio perché non parlerò molto, in genere mi fate parlare, non mi interrompete, poi insomma quando uno dice qualcosa che non va si può anche interrompere. Bene, in sostanza qual è l'aspetto che io nella mia testa tratteggio? C'è un elemento fondamentale, centrale. Io ho fatto altre relazioni sulla sanità, ho fatto a Napoli, allo SLAI Copas provinciale e nazionale, in cui tratteggiavo un po' tutto quello che è stato il percorso dalla legge che diceva del 78 in poi, come la sanità praticamente nazionale è stata adattata a una nuova formula, la famosa formula che la salute deve diventare una merce ed è diventata merce. Perciò io non è che devo aggiungere altro a quello che è stato detto, perciò possiamo andare a guardare tutti i dettagli, uno in più che magari posso aggiungere, che alcuni contratti come quello delle imprese di pulizie e multiservizi, quelle delle cooperative sociali, addetto all'assistenza e alla formazione, hanno introdotto, pagano 5 euro al mese, hanno introdotto una forma di assistenza sanitaria alternativa. Io mi sono battuto contro questa cosa, però con pochi risultati, perché la maggior parte dei lavoratori hanno aderito. Adesso qualcuno fa aderire anche i familiari. Che cosa succede? Che ci sono delle cliniche confezionate, di servizi confezionati in cui questi lavoratori vanno e hanno un po' quello che diceva Pino, tutto sommato. Cioè una, come posso dire, è tratteggiare un po' come il servizio sanitario nazionale, lui ha parlato del 49%, io secondo me, da quello che ho letto io, il 60% oggi della sanità è in mano ai preti e ai privati, e l'altro... Ah, Lombardia, ah, tutto, io parlavo palinciano, ma insomma, è evidente che questo progetto sicuramente andrà in porto, e poi dico il mio pensiero, perché purtroppo, questa è un'altra analisi molto particolare che magari qualcuno di voi non può condividere, il settore di intervento economico del capitale si esaurisce in qualche modo, allora intervengono la sanità, alimentazione, e quelli che muoiono sono settori che non vanno mai in crisi, ecco, si interviene là. Ora, che fare? Io, visto che insomma c'è anche quello che siamo, non faccio grandi ragionamenti. È evidente che, preso atto di questo, il giornale va bene, io dico anche a lui, se c'è qualche iniziativa chiamatemi, io vengo, non c'è problema, anche come sindacato, c'è da andare a individuare dal punto di vista politico, che secondo me è l'aspetto più importante della questione, perché i lavoratori della sanità e tanti altri settori non sono più combattivi come prima. Perché hanno paura, la famosa paura che diceva lui. Io faccio l'esempio di dove lavoravo io. Io lavoravo a Redelli, adesso purtroppo sono andato in pensione, sono diventato vecchio, 7-8 anni che sono in pensione, lo SLAI Copas presente in quel posto aveva fatto tante cose buone, premio incentivante a pioggia, progressione di risorse, cioè un casino di cose, cambio tuta, vinda e tutto. Vado via io, 5 delegati dello SLAI, insieme a USB avevamo la maggioranza della RSU, abbiamo bloccato l'azienda su certi progetti, 2 delegati dello SLAI se ne vanno alla CGIL. perché nel progetto politico, questo è importante, nel progetto politico di alcune organizzazioni a cui hanno aderito queste compagne, dicono che bisogna lavorare nella CGIL perché bisogna cambiare la CGIL dall'interno. Ma perché ci dici queste cose? Noi la sanità, però anche lui ha tirato fuori questi aspetti. È vero, allora Redaelli, come tanti altri posti, allora ascoltami, io le dico queste cose, non voglio che tu li condividi, se no uno fa scena muta. È importante perché? Perché il sottoscritto si è preso la briga, come tutti voi, di andare ad analizzare un po' perché. Allora oggi abbiamo le organizzazioni sindacali governative, come diceva Pino, hanno creato le condizioni perché in questo paese, in Italia, rispetto all'inflazione, mentre in Germania il 40% dello stipendio in questi ultimi 30 anni è stato introiettato dai lavoratori, 35%, adesso poi prenderò il libro e ve lo faccio vedere, in Francia il 18%, in Spagna, in Italia meno 3,5%. Perciò gli stipendi degli italiani rispetto all'inflazione in 30 anni non solo sono restati al palo, ma si sono ridotti. Ecco perché gli operai, i lavoratori sono spaventati, perché c'è questo controllo, c'è un controllo micidiale, come è successo a Redelli, come è successo in tanti altri posti. Quando arrivano queste organizzazioni a avere in mano il potere della RSU, non c'è più niente da fare, non c'è più niente da fare, fanno gli accordi e poi te li propongono, fanno l'accordo sulla banca ora e te lo propongono, non è che vengono e discutono. Io ho fatto metalmeccanico, lavoravo vicino a Michelino. Prima, allora, i metalmeccanici, negli anni 70, anni 80, prima di firmare un accordo nazionale, venivano almeno a sentire i lavoratori cosa ne pensavano. Poi magari facevano lo stesso quello che vogliono. Oggi, purtroppo, nella sanità, nelle cooperative sociali, nella logistica, fanno gli accordi e poi vengono, abbiamo fatto questo bell'accordo, anche se non va bene, anche se non va bene. Perciò, questo è l'elemento centrale. Che fare? Ma la faccio breve perché è sempre così, purtroppo, non è che posso, ci sono persone sicuramente molto molto più preparate di me e possono, che fare? È evidente che l'elemento centrale della nostra discussione, io ringrazio Pino che mi ha fatto, non lo sapevo, questa storia che stanno mettendo questi stoccaggi perché prevedono la guerra atomica, io sono quasi convinto che ci stiamo andando a grandi passi, spero di no, mi ha consolidato questo fatto. Abbiamo noi gli strumenti. Io quando vado alle manifestazioni, vado come tra le Copas, quei 4-5 che siamo, vedo 80 sigle, un sacco di andare controcorrente, rifondazione, un casino di sigle, tutti di sinistra. Ma che si trovino mai questi compagni a parlare una sola voce? Mai. Allora è evidente che io mi preoccupo e dico, ma quando dovremo veramente organizzarci? Quanti siamo? Chi siamo? Cosa facciamo? E allora facciamo quello che possiamo oggi. Nel nostro piccolo facciamo controinformazione e facciamo informazione di classe alla classe operaia per dire tu non sei una classe del capitale, sei una classe per te. La paura è utile, sì, l'angoscia no, ma la paura è utile. Però per preparare una reazione. Allora io dico a Pino e a chi ha voglia, io sono in pensione, lavoro per lo Sly Copas, notte al giorno mi ammazzo, però posso trovare il tempo, se c'è un presidio davanti a un ospedale, cose che dobbiamo fare, l'abbiamo fatto a San Paolo, l'abbiamo fatto a Redelli, l'abbiamo fatto a Niguarda, o sono andati in pensione i compagni, o sono morti, il sindacato di base nella sanità sta sparendo, c'è poco da fare, inutile che ci pigliamo per il culo, è così. Che facciamo? Regaliamo tutti a CGL, ci siamo al nursing camera? Facciamo quello che possiamo fare. Io ho letto un articoletto, e forse non so chi l'ha scritto, quello che parlava prima, ha citato, io non sono un gramsciano, ha citato Gramsci, che in sostanza dice questo: guardiamo pure quello che succede, ma siamo ottimisti perché pensiamo al futuro. Facciamo cosa, come Rosa Luxemburg, dice, mi stanno ammazzando, però almeno io sono talmente convinta che sicuramente il futuro sarà migliore. E pensiamo anche noi così. Io penso al futuro, perché sono convinto da marxista che questa è l'unica classe che può battere il sistema del capitale. Contribuiamo tutti insieme, se possiamo, anche, come dire, tu non mi piace, ma facciamo la stessa strada, facciamo la stessa strada. È difficile, lo so, è tutti così, è quello, ma secondo te i padroni, secondo voi i padroni non vanno d'accordo? Si ammassano e poi vanno d'accordo per mettercela nel culo a noi tutti. È così, allora possiamo fare una cosa che ogni tanto ci troviamo insieme e ragioniamo insieme, pochi, pochi, quei pochi almeno soddisfiamo il nostro bisogno di confliggere in modo corretto contro questo sistema infame e disumano. Grazie. Niente, vorrei lanciare soltanto proprio a mo' di fotografia quello che è il privato. Io lavoro a San Raffaele, lavoro all'ospedale all'IRCS, ospedale San Raffaele, e devo dire che la carenza di infermieri è drammatica anche al San Raffaele. Dal San Raffaele vanno via, ma non vanno verso il pubblico. No, vanno, scusatemi, non vanno verso altre forme di privato, vanno verso il pubblico tendenzialmente. Il privato che viene scelto da questi professionisti, parliamo di professionisti tra virgolette oserei dire iperspecializzati come infermieri, quindi strumentisti di sala, professionisti delle sale emodinamiche eccetera, vanno verso la libera professione, dove lì evidentemente riescono a guadagnare molto bene. Quindi cioè, ci sarebbe forse da fare un'analisi, cioè un pochino più puntuale, cioè del fatto che dal pubblico scappano e vanno verso il privato. È vero anche invece il contrario, cioè che dal privato, un privato quale il San Raffaele è molto di prestigio, no? Se volete, come IRCS, vanno invece verso le strutture pubbliche. Poi c'è una carenza di fondo oramai degli infermieri, cioè non dei medici ma sicuramente degli infermieri, e questo crea a cascata, diciamo, la problematica che investe un po' le realtà, i presidi ospedalieri. Il San Raffaele c'è di questa, cioè l'intramenia poi è tipica della sanità pubblica. Per quel che riguarda il San Raffaele, cioè sconti non ne fa nessuno, neanche i suoi dipendenti, neanche come welfare e quant'altro. Ha una quelli che loro definiscono clienti, ha una clientela vastissima, per cui non ha bisogno di dover ricorrere a queste forme. L'unica condizione, si fa per dire, di favore che fa ai suoi dipendenti è un 30% sulla solvenza pura. Ma dovete immaginare che i costi sono altissimi per le prestazioni, fosse anche TAC eccetera, avendo delle strumentazioni che, va detto, sono di altissima tecnologia. Quindi una RM che in qualche altro sito privato o pubblico che sia potete trovarla sui 300 euro, a San Raffaele meno di 900 euro non si paga, proprio per l'alta precisione. Il San Raffaele, inteso come gruppo Rotelli, ma anche proprio come ospedale IRCS San Raffaele, è in una fase di grandissimo ampliamento della sua, cioè lo dovete immaginare proprio come una multinazionale, come una Stellantis, cioè nella misura in cui gli orizzonti si stanno orientando verso la Polonia, con solvenza, cioè pura, purissima, installa presidi, ospedali eccetera, rivolta a una clientela meramente, diciamo, pagante, solvente. In Libia ha stipulato ora un accordo di 2 miliardi e oltre che per l'esportazione di modelli gestionali, bla bla bla, anche nel campo del trattamento dei rifiuti. Immaginate che a San Raffaele, cioè ultimamente penso che sia venuta, no? Tutti avete conosciuto quello che è successo a San Raffaele con la problematica delle cooperative, eccetera. Questa grande cooperativa, Auxilium, noi abbiamo richiesto chi veramente c'è dietro Auxilium, come faccio parte sono una delegata sindacale della RSU. Informazioni non ci vengono date, non sono tenute a fornircele. Loro hanno preso l'appalto assoluto nel campo della gestione dei rifiuti e ora anche con Auxilium Care nel campo dell'assistenza. Chi fa parte di queste cooperative, anche a livello infermieristico, è soprattutto personale che viene da altri paesi. e la Consilium gode della possibilità della deroga, che del prosieguo, no, della deroga che c'era stato quando c'era il Covid, dove le lauree dei professionisti potevano essere, diciamo, equiparate a quelle dei colleghi italiani con un iter molto breve, insomma non c'era bisogno di fare un esame della lingua, conoscere eccetera. E questo è stato prorogato a tutto il 2027, il che vuol dire, consentitemi, non è il mio pensiero, però una manodopera proprio a costi bassissimi. E questo però poi ti crea che, appunto, cioè, non conoscendo anche e non avendo proprietà della lingua italiana, insomma, essendo in un campo molto molto specifico, cioè diventa facile confondere farmaci, dosaggi e quant'altro, insomma, un tipo di vengono pagati, loro sono tutti liberi professionisti. Abbiamo queste cooperative che non hanno dipendenti, hanno soltanto dei liberi professionisti pagati, sia per quel che riguarda gli infermieri che per quel che riguarda gli OS 15 euro l'ora, gli infermieri 25, ma insomma, a detta di chi fa la libera professione, veramente delle miserie abnormi. Quindi, cioè, è un quadro che sicuramente forse presenta delle complessità maggiori di quelle che noi possiamo immaginare, considerare, vedere, cioè i fondi nella sanità privata eccetera. Io penso che loro non ne abbiano assolutamente interesse, cioè non, anche perché avendo un ampio campo di investimento e un ampio campo di clientela, loro se vanno per la solvenza vanno per la solvenza iperpura, cioè vieni, paghi cash e senza, possibilmente senza fondi o assicurazioni che pongono tutta una serie di condizioni, di limiti e quant'altro. Altro. Il San Raffaele, rispetto ai suoi dipendenti, soprattutto quelli del comparto, quando parlo di comparto intendo tutto ciò che non è parte medica, quindi tutto il resto dell'universo, delle divise o dei, diciamo, delle persone, dei lavoratori che vedete al San Raffaele afferiscono al comparto, anche come biologi, ricercatori eccetera. Hanno un rapporto che è di iper, come di sfruttamento proprio, cioè loro non sono anni che non, tranne qualche forma non di welfare ma di fringe benefit, che sarebbero queste questi buoni che danno ogni tanto, cioè, sotto forma di, cioè, dai 600, 500, 600 euro giusto per tamponare. Al di là di questo, cioè, abbandonano quello che è la contrattazione integrativa aziendale. Facciamo riferimento a un contratto nazionale che è quello dell'IOP, che regola tutto l'universo, la maggior parte dell'universo della sanità privata, di cui presidente è il, cioè la presidenza viene detenuta dal San Raffaele. E anche lì sono 7 anni che il contratto non viene rinnovato. Per cui c'è in effetti anche una fuga, soprattutto dall'IRCS San Raffaele, di infermieri, di operatori in senso lato, insomma anche tecnici, educatori, OS e quant'altro. Rispetto a questo, vabbè, come azione sindacale noi abbiamo, è da tempo, oggi è ancora più incalzante, accanto alle rivendicazioni meramente, come dire, economiche, retributive, normative e quant'altro, noi abbiamo ritenuto imprescindibile unire quella che è la difesa dell'assistenza, della cura e delle prestazioni, insomma, regate ai pazienti, noi diciamo soprattutto a quelli che si rivolgono col Servizio Sanitario Nazionale, perché vediamo che c'è un dislivello abnorme. Aprono in continuazione reparti di solvenza, ambulatori, quindi prestazioni sotto forma di servizi, di erogazioni, come dire, di TAC e strumentali e quant'altro, in solvenza. Mentre aumenta la massa che tutti i giorni arriva al San Raffaele per poter provare ad avere, diciamo, accesso a qualche prestazione e vedersela rifiutare, e incominciano ad esserci anche dei seri problemi proprio di ordine pubblico, perché poi sapete benissimo che è il front office quello che poi, insomma, come dire, rischia di pagare le conseguenze di questa scelta, dagli amministrativi ma anche al personale sanitario che lavora negli ambulatori. E in questo noi appunto stiamo cercando di riuscire ad ottenere questa, come dice, questa linea di unione con l'utenza, che in parte ci ha molto sostenuto anche ora che c'era stato l'episodio grave della medicina data in appalto, insomma, che ha procurato tutto quel dramma che è venuto fuori e che poi si è risolto attraverso i media che si sono tirati indietro nel giro di poco. Insomma, la Regione Lombardia ha detto che va tutto bene, che è tutto rientrato, quindi si può proseguire. E invece noi cerchiamo appunto attraverso, insomma, il nostro agire con i lavoratori, anche l'utenza, di riuscire a fare un fronte tale che possa effettivamente, insomma, domani vedere noi in aiuto loro e loro in aiuto nostro. Infatti tantissime lettere di denuncia sono arrivate sia alla RSU che all'URP del San Raffaele, in cui la gente incomincia a muoversi e dice effettivamente, insomma, che cosa è che non va e come poter farvi fronte. Va bene, grazie. Ci sono altri interventi, domande dal pubblico? Allora, io pensavo di introdurre il film proprio prima di vedere il film. Se volete ne parliamo adesso. Siete tutti qua anche per il film? Va bene. Allora, intanto introduco chi siamo. Siamo la rete Sanitari per Gaza, che è una rete di sanitari che è nata a fine del 2023, quando si è reso evidente che c'era un attacco sistematico alle strutture sanitarie e agli operatori sanitari a Gaza, e che questo era un metodo preciso, seguiva un metodo preciso, come poi vedremo nel film, e non era assolutamente casuale né era determinato da quelle che erano le scuse che poi sono state smentite più e più volte sul fatto che, secondo Israele, degli ospedali si nascondesse Hamas. Questo verrà spiegato, sia la metodica che ha utilizzato Israele, sia che tutte queste cose poi sono state smentite, lo vedrete all'interno del film. Siamo una rete a livello nazionale che è nata a Firenze e poi si è praticamente diffusa in tutta Italia, e siamo nati proprio per informare, perché su questa cosa l'informazione per 2 anni non c'è stata, ma non c'è tuttora, cioè su quello che sta succedendo a Gaza, ma e soprattutto su quello che sta succedendo dal punto di vista della distruzione del sistema sanitario. Quindi siamo nati per informare o controinformare e denunciare su questi aspetti. E siamo una rete che lavora anche con una rete internazionale di medici, per esempio gli healthcare worker inglesi, i Doctors Against Genocide americani, poi una rete simile di cui non ricordo il nome, spagnola. E abbiamo fatto anche delle azioni a livello internazionale. Per esempio, l'anno scorso a gennaio ci siamo trovati a Ginevra davanti all'ONU per qualche giorno, abbiamo manifestato, mantenuto una tenda chiamata la Grande Tenda Bianca, e abbiamo portato le nostre istanze anche all'ONU, ovviamente sortendo nessun effetto, questo purtroppo vale dirlo. Allora, i sanitari che sono stati assassinati hanno superato il numero di 1700 sanitari, sono stati rapiti più di 400 sanitari, poi coi vari scambi siamo adesso sono ancora in mano, molti sono ritornati e sono ancora in mano a Israele nelle carceri, nei campi di, chiamiamoli, di concentramento, perché questo sono israeliani, ancora 95 più o meno sanitari. Questi sanitari hanno subito torture indicibili, cosa di cui parlerà il film, e alcuni di questi sanitari qua sono morti proprio durante la detenzione. Allora, che dire? Perché volevo parlare un attimino, vabbè, di quello che siamo noi e poi fare un attimo una panoramica veloce su com'era la sanità prima di questo, di questa guerra, non possiamo chiamarla guerra, di questa aggressione e di quello che sono le carenze oggi e di quella che è la situazione attuale, perché il film che vedremo è un film che è uscito alla fine, è uscito a maggio-giugno dell'anno scorso, è stato fatto a febbraio, poi ci sono stati diversi problemi perché in teoria era stato prodotto dalla BBC, la BBC a un certo punto si è tirata indietro dicendo che però non rispettava quello che per loro era un principio assolutamente essenziale nel loro lavoro, che era la parzialità, e quindi si sono tirati indietro. A quel punto ci sono state tantissime proteste anche proprio dagli utenti eccetera eccetera, finché la BBC ha venduto il film alla Basement Film che l'ha prodotto e finalmente poi è uscito, trasmesso da Channel 4 e da una piattaforma americana che si chiama Zeteo a giugno. Dopo un po' è stato reso pubblico, dopo uno o due mesi è stato reso pubblico su YouTube, adesso non si trova più su YouTube, però niente, noi lo stiamo portando proprio in giro a livello nazionale da qualche mese, e per cui siamo disponibili se qualcuno poi ha il desiderio di farlo vedere in qualche circolo, qualche cinema eccetera eccetera, siamo disponibili su tutto il territorio nazionale a portarlo in giro. Allora, questa è una delle cose che ad esempio noi facciamo, per cui il lavoro di controinformazione, di denuncia e in questo momento di diffusione del film. Poi abbiamo fatto dei documenti piuttosto importanti, che sono uno sulla distruzione del sistema nazionale a Gaza e l'altro sulla tortura dei prigionieri, sia dei sanitari che dei prigionieri in generale. Purtroppo non abbiamo le copie cartacee, se non pochissime, però dopo faremo lì un banchetto con il nostro materiale. Abbiamo un foglio con un QR code, se voi semplicemente lo riprendete il QR code ve lo potete scaricare sul telefonino, poi dopo ve lo stampate o ve lo vedete su internet come volete. Per cui questo è un'altra delle cose che portiamo avanti. Allora, quelle che sono tra virgolette le richieste che noi facciamo al governo, anche se ovviamente sappiamo benissimo che non basta richiedere, infatti per questo motivo siamo poi sempre in piazza noi di Milano tutti i sabati alle manifestazioni per la Palestina, ma anche in tutte le varie altre città. Noi ovviamente pretendiamo che il nostro Stato, il nostro governo interrompa la complicità e il sostegno a Israele nel genocidio, e quindi tutte le relazioni economiche e diplomatiche, che ci sia un blocco dell'invio di armi e di componentistica militare da parte del nostro Stato, una richiesta di cessate il fuoco permanente ma reale, perché il cessate il fuoco che c'è da qualche mese è assolutamente fasullo, nel senso che i bombardamenti continuano, e anche ultimamente l'altro giorno è stato assassinato un infermiere, quindi continua anche l'opera di annientamento di quella che sono, che è il servizio, quello che è rimasto del servizio sanitario. Richiediamo la fine dell'embargo a Gaza che c'è da 17 anni, richiediamo che vengano ampliati i corridoi umanitari e sanitari in Italia e in Europa, le persone che sono in attesa di essere trasferite per necessità di cure urgenti sono almeno 15.000 e le persone evacuate sono state veramente una piccolissima percentuale. Richiediamo di riattivare e incrementare il contributo per l'UNRWA e di aprire anche le frontiere per far entrare sia gli aiuti umanitari nel senso della, del cibo, perché si sta ancora comunque morendo di fame, sia per quelle che sono le case, le strutture prefabbricate che aspettano al confine. La maggior parte adesso dei Gazawi vive o in case che rischiano di crollare viste le condizioni climatiche che ci sono e ogni tanto crollano e chi c'è dentro muore, oppure vivono in tenda e adesso lì fa un freddo pazzesco. Ultimamente non so se siete informati, se avete visto, ci sono state delle tormente e molte tende sono volate via, quindi oppure sono state allagate, perché buona parte delle tende sono nella parte costiera di Al-Mawalasi, che è proprio sul mare e quindi si allagano facilmente, sono sulla sabbia e le persone vivono in delle condizioni indicibili, continuano a morire persone ma soprattutto bambini di freddo, ok? E per cui niente, la richiesta è che si sblocchino, cosa che doveva essere compresa nel discorso del cessate il fuoco, perché bisogna dire che Hamas ha rispettato assolutamente tutte le cose che sono state richieste, dall'altra parte Israele non ha rispettato niente e quindi tutti gli aiuti umanitari sono ancora fermi ed entrano veramente, diciamo, delle percentuali minime rispetto a quelle che sono le necessità. E poi c'è tutto il grosso problema delle condutture di acqua e di scariche fognari. Adesso noi stiamo lavorando a un documento sull'ecocidio, uno dei reati di cui un giorno probabilmente verrà accusato Israele è quello di aver commesso un ecocidio. Sono stati distrutti tutti gli impianti fognari e tutte le condutture d'acqua, sono stati bombardati i pozzi, per cui c'è un grossissimo problema di, da una parte, salinizzazione di quella che è la falda acquifera e di inquinamento, perché non c'è la possibilità di accesso alle discariche e quindi si sta accumulando una roba tipo, adesso non mi ricordo quali erano le cifre, ma milioni di tonnellate di spazzatura che alla fine cola all'interno della falda acquifere e infatti le malattie sia della pelle che gastrointestinali si sono diffuse, ma non adesso, già da mesi, da tantissimo tempo, in maniera proprio in maniera enorme. Altra cosa che facciamo come Sanitari per Gaza, invitiamo tutti al boicottaggio dei prodotti israeliani, ma in particolare ci occupiamo del boicottaggio dal punto di vista, diciamo, di quelli che sono i prodotti, i farmaci, i prodotti sanitari. In particolare è stata presa come obiettivo principale la casa farmaceutica Teva. La casa farmaceutica Teva è una casa farmaceutica che è diffusa in tutto il mondo e che fa i generici. Quindi se voi andate a vedere nelle vostre case probabilmente siete pieni di prodotti Teva. Allora, la Teva ha finanziato il genocidio proprio dal punto di vista di quello che è il finanziamento e ha tutta una serie di problematiche relative sia anche al fatto che all'interno del territorio occupati ha sempre avuto il monopolio dei farmaci, non ha mai permesso, questo anche prima di questo genocidio, ai palestinesi di sviluppare il proprio sistema sanitario, di avere i propri farmaci. Per questo chiediamo a tutti, poi fuori esporremo magari del materiale anche su questo, di chiedere semplicemente farmacia di non fornirvi i prodotti Teva e di prendere altri prodotti. È una cosa che non costa niente, è un'azione non violenta, però è una cosa che, se fatta a livello di massa, ovviamente dà un'indicazione, può comunque incidere un pochino. Poi vabbè, abbiamo aderito a campagne e denunce, tra cui quella del CRED, dei giuristi italiani, per la liberazione dei medici e dei sanitari ancora detenuti, dei quali il più famoso probabilmente conoscete è il dottor Usama Abu Safia, che è stato rapito nel dicembre 2024, era responsabile della pediatria e comunque dell'ospedale Kamal Adwan, che era un ospedale, è uno degli ospedali che sono rimasti fino all'ultimo al nord. Il nord è stata la zona in assoluto più devastata, e questi sanitari, tra cui lui, hanno cercato di rimanere il più possibile finché poi non hanno potuto fare altro che andarsene. Lui si è consegnato a Israele ed è da più di un anno che è detenuto, che è stato torturato, ha perso un sacco di peso ovviamente perché vive in condizioni allucinanti. È malato, ha diverse problematiche sanitarie e non ha accesso, come poi vedrete, tutti questi sanitari che sono detenuti non hanno accesso a cure sanitarie, ma neanche le minime. In più abbiamo aderito a quella che è stata sempre una campagna fatta dal CRED, da questi giuristi italiani, potete trovarla anche su internet e firmarla anche voi, per portare il nostro governo nelle figure di Tajani, la Meloni, Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo, portare l'attenzione di quello che è stato l'operato del nostro governo alla Corte Penale Internazionale. Non possiamo fare una denuncia verso il governo, ma verso le figure istituzionali sì. Poi sarà la Corte Penale Internazionale che deciderà se aprire una denuncia nei loro confronti. Se volete firmare questa cosa, la potete trovare sotto, credo, l'acronimo GAP giuristi, non mi ricordo cos'è, per la Palestina comunque, ed è firmabile da tutti. Poi che dire, vabbè, ovviamente collaboriamo anche con altre realtà come la rete di Juno Gaza, l'osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, che si impegna a prevenire e contrastare la crescente influenza bellica nei contesti educativi, e idem con la Conoscenza Non Marcia, che lavora a livello universitario, e poi con Pangea, che è un'organizzazione che raccoglie fondi per sostenere le attività di un campo attrezzato per ospitare in sicurezza le donne sopravvissute alla violenza e i loro figli. Ci occupiamo in alcune città, a Milano non ancora, ma comunque in altre città, dell'accoglienza di quelli che sono i casi che arrivano qua. Allora, l'Italia accoglie solo bambini, ok? Quindi bambini che hanno problematiche sanitarie e i loro accompagnatori. in alcune città tipo Bologna, Roma, eccetera, Sanitari per Gaza ha un occhio e una collaborazione anche per l'accoglienza di queste persone. Queste persone vengono accolte in genere negli ospedali. Una volta che vengono dimesse dagli ospedali, si trovano a volte a non essere assolutamente seguite, piuttosto che messe nei CAS, che sono i centri di prima accoglienza per i rifugiati, quindi in condizioni che non sono assolutamente idonee per accogliere persone che già vengono da uno stato, cioè da una situazione allucinante, vengono qui perché comunque hanno delle problematiche sanitarie e si ritrovano in una situazione di precarietà assoluta. Tant'è vero che in alcune città Sanitari per Gaza, piuttosto che i volontari di altre associazioni, sono arrivati addirittura a occuparsi personalmente dell'alloggio, piuttosto che dei trasporti, delle iscrizioni a scuola, eccetera, eccetera. Quindi anche questa è una cosa da seguire, da tenere presente. Abbiamo una pagina Instagram nazionale e mentre come Sanitari per Gaza Milano abbiamo un canale su Telegram. Dopo metteremo lì fuori un foglietto, se volete prenderlo, ci sono poi tutti i riferimenti. Allora, questo è quello che riguarda noi. Adesso faccio un excursus velocissimo su quello che era Gaza prima del 7 ottobre 2023. Poi facciamo un break con un buffet, un aperitivo e poi vediamo il film. Va bene. Allora, che dire? Prima del genocidio com'era il sistema sanitario? C'erano 36 ospedali che, a detta anche di molte persone, molti sanitari italiani che sono stati a Gaza a lavorare, avevano un'altissima qualità sia di preparazione che di proposta di cure. Ovviamente anche prima di questa aggressione che è cominciata col 7 ottobre 2023, Gaza era in una situazione molto precaria. Questo perché? Intanto perché parliamo di una striscia che è lunga 40 km per 10 km, ok, e aveva già una densità altissima di 2.200.000 persone, quindi una densità tra le più alte al mondo, e quindi la densità pre-aggressione era di 5.700 persone per chilometro quadrato. Dopo tutto quello che è successo, si è arrivati per esempio nel territorio di cui parlavo prima, quello costiero, dove si sono raggruppate, quello che è stato in teoria definito come la zona sicura, cosa che non è perché poi la bombardano costantemente, al Mawasi, si è arrivati a 48.000 persone per chilometro quadrato, quindi una densità inimmaginabile. Di cosa si occupavano questi ospedali? Vabbè, allora le patologie che ovviamente si occupano i nostri ospedali, quindi patologie croniche, insomma tutte quelle che abbiamo qua, ma anche patologie date dalla malnutrizione, perché essendo Gaza sotto assedio già dal 2006, sotto embargo, esatto, dal 2007... ovviamente non entrava tutto quello che serviva per diciamo avere una nutrizione ideale, e tra l'altro ci sono studi che dicono che questa cosa era assolutamente voluta da Israele, di mantenere la popolazione a un livello minimo sufficiente per garantire la vita rispetto ai bambini e comunque a tutta la popolazione, ma non, per non permettere comunque uno stato di benessere. Insomma, il cibo veniva razionato, l'acqua era avvelenata, l'acqua delle fonti, sia delle fonti che delle falde, perché c'erano già tutta una serie di cose che venivano fatte, tra cui tra l'altro l'inquinamento di quelli che erano i campi agricoli con spargimento di pesticidi e di materiali tossici, questi con la scusa che Israele aveva bisogno, siccome la maggior parte dei territori agricoli erano verso il confine con Israele nella parte est, Israele diceva che aveva bisogno che non ci fossero piante, perché sennò per una questione di sicurezza veniva coperta la visuale e doveva avere il controllo. Però questo era anche un boicottaggio dell'agricoltura, dei mezzi di sussistenza della popolazione, e tutti questi veleni comunque venivano distribuiti in giro e penetravano nelle falde acquifere. Per cui c'erano già problemi sia di malnutrizione che di avvelenamenti dell'aria, dell'acqua e della terra. In più è stato, le aggressioni che sono state fatte nella striscia di Gaza sono state diverse, e ci sono stati diversi studi per cui si è verificato che venivano usate armi illegali. Soprattutto qui in Italia c'era una studiosa che faceva parte anche di Sanitari per Gaza, che purtroppo l'anno scorso è scomparsa, e faceva parte di questa associazione, anche questo potete trovare su internet tutti i riferimenti, che è la New Weapon Research Group. E lei rimase, cioè andò a Gaza per 14 anni, lei era una genetista e fece gli studi sia sulle donne in gravidanza che sui bambini piccoli, e emerse che molti bambini nascevano già o prematuri o con malformazioni o con problematiche del DNA, proprio perché era stato fatto più volte uso di armi illegali, quindi contenente materiali tossici, minerali tossici, eccetera eccetera. Adesso vabbè, ovviamente non ne parliamo. In più c'era una altissima necessità della chirurgia ortopedica, soprattutto negli anni del 2018-2019, in cui ci fu da parte dei palestinesi, venne fatta la marcia del ritorno, che era questa marcia che veniva fatta, mi pare, tutti i venerdì al confine con Israele, e i palestinesi andavano pacificamente a marciare verso questo confine e venivano sempre massacrati dai soldati, e soprattutto i giovani gli veniva sparato, in particolare alle gambe e alle ginocchia. Infatti ci furono più di 35.000 feriti, e moltissimi vennero amputati. Infatti questo è un grandissimo problema di Gaza, perché prima del 7 ottobre gli amputati erano sui 4.000, adesso si conta che sono almeno sui 7.000, di cui il 23% sono bambini. Tra l'altro sono comunque amputati che non hanno potuto, cioè amputati o comunque feriti, che non hanno potuto usufruire neanche delle cure riabilitative. Quindi questo vuol dire che gli esiti degli interventi e delle amputazioni saranno ancora più gravi, perché non hanno potuto comunque fare quello che si dovrebbe fare quando ci sono questi tipi di interventi. Va detto, e questo probabilmente esce anche dal film, che siccome il blocco che viene fatto a Gaza, sia prima, a maggior ragione adesso, riguarda anche i medicinali, non solo il cibo, moltissime persone sono state o sono morte perché non c'erano comunque a sufficienza i medicinali per curarli, o sono state comunque hanno subito interventi chirurgici anche senza anestesia. Ok, quindi parliamo anche di bambini che sono stati amputati senza anestesia, con quello che può comportare sia nel momento dell'intervento, ma anche nel futuro e nella crescita di questi bambini. Vabbè, direi che più o meno può essere tutto. L'ultima cosa che mi viene da dire è che comunque prima del 2008 e di tutte queste escalation militari, i vari ospedali di Gaza e Cisgiordania facevano parte di un complesso unico, mentre poi sono stati separati, quindi Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza non sono più potuti essere un unico blocco come comprensorio di ospedali. Vabbè, qui non so se volete andare avanti, si può parlare di quella che è la tortura che è stata fatta, sia a livello, sia la tortura fisica che la tortura psicologica. Il film ne parla abbondantemente. Diciamo che anche questo non ne parlo approfonditamente, però quello che vorrei dire è che anche questo determina un grosso impatto sulle persone, sul loro impatto, ha un grosso impatto anche su quelle che sono le funzioni cognitive delle persone, perché molte delle persone soggette a tortura sono più facilitate a sviluppare non solo problemi cognitivi, ma andare incontro alla demenza. Quindi potete immaginare voi che Gaza, se anche solo tutto quello che non sta finendo finisse ora, ok, Gaza si ritrova con ospedali distrutti, personale sanitario che è stato ridotto di tantissimo, perché sono sparite almeno 1700 persone, e per costruire dei sanitari ci vogliono tantissimi anni, ok? Quindi c'è un grandissimo gap incolmabile, ok? In più, con un livello di handicap e di handicap sia fisico che psicologico enorme, ok? E per quello che sono i nuovi nati, allora sia gli orfani, adesso non mi ricordo quant'è la percentuale di orfani, comunque abbiamo almeno 20.000 bambini che sono senza genitori, in più magari sono anche bambini con problematiche appunto sia psicologiche che fisiche, quindi una situazione allucinante. Ecco, no, la cosa importante da dire è che alle torture del personale medico e dei prigionieri in generale hanno collaborato anche i medici israeliani, e questo è un fatto che emerge poi anche nel film ed è emerso da testimonianze. La cosa vergognosa è che nessun ordine, quasi nessun ordine medico a livello internazionale si è espresso su questo. A livello italiano, noi come Sanitari per Gaza abbiamo bussato alle porte di tutti gli ordini medici, abbiamo poi a un certo punto fatto una lettera che è stata firmata da 40.000 sanitari italiani per chiedere agli ordini medici di esprimersi su quello che sta succedendo lì. E abbiamo ricevuto, non dico zero, ma quasi. Ma questo non è solo qua, è anche a livello internazionale. Ad esempio, la World Medical Association, che è quella associazione che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio perché è venuto fuori gli orrori che avevano fatto i medici nazisti, e quindi per evitare che questo si potesse ripetere e per creare tutta una serie di convenzioni e di modelli etici che i medici dovevano rispettare, okay, la World Medical Association non si è presa la briga di denunciare quello che è successo e anche il collaborazionismo dei medici israeliani. E questo è emerso anche, per esempio, da un articolo su Lancet, che è una delle più autorevoli riviste in campo sanitario. Quindi, come dire, non sono cose che diciamo solo noi, però è proprio un dato accertato. Niente, io mi fermerei qua.